GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 10 reperti per trovare il DNA di una bomber, ma per i legali degli indagati potrebbero essere contaminati. Varsila, sindacati in audizione in Parlamento. Vogliamo chiarezza sui piani industriali di chi vuole subentrare ai finlandesi. Inquinamento da PFAS, valori molto elevati a Premariaco e Rovere do Porcia, dice una mappa europea. Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, ma sulla settimana corta per tutti sono scettici anche i sindacati. Piscina termale di Grado, riapertura attesa dopo lo stop imposto dal caro energia, con numeri già da tutto esaurito. Sfide globali del futuro, internazionalizzazione e pace tra i temi portanti della Design Week di Pordenone. Sanitari sotto attacco, in un anno quasi 130 aggressioni al personale nel pordenonese, le voci dal presidio. Stima rapida dei danni dei terremoti sugli edifici, il metodo sperimentale ma già usato di OGS e Università di Trieste. 7:19 minuti di martedì 14 marzo, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 13 gradi, a Gorizia, a Udine e Pordenone 10 gradi, a Tolmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra 3 gradi, a Tarvisio 9 gradi e mezzo, a Sappada da 2 gradi, sul Piancavallo 4 gradi, sul Monte Lussari 3 gradi, sul Monte Zoncolan 1 grado, a Lignano 10 gradi, a Grado 12. Queste invece le previsioni per oggi. Cielo coperto con piogge diffuse da abbondanti ad intense sulle Prealpi Giulie, anche molto intense. Quota neve che inizialmente sarà attorno ai 1700-2000 metri, poi in discesa fino a 1000 metri circa verso sera. Saranno possibili rovesci anche temporaleschi, specie nel pomeriggio sera. Sulla costa in giornata soffierà scirocco moderato o sostenuto. Sulla zona montana fino al pomeriggio soffierà vento da sud-ovest moderato con raffiche sostenute in quota, specie su Alpi e Prealpi Giulia. Oggi pericolo forte di grado 4 di valanghe in montagna sulle Alpi Giulie. L'abbondante neve fresca, così come gli accumuli di neve ventata, rappresentano la principale fonte di pericolo a tutte le esposizioni per possibili distacchi provocati o spontanei. Le escursioni sono sconsigliate. Pericolo di grado 3 marcato sulle Alpi Carniche, pericolo di grado 2 moderato sulla zona prealpina. La stessa situazione con i medesimi livelli di rischio proseguirà anche domani, mercoledì 15 marzo. Il GIP del Tribunale di Trieste ha assegnato l'incarico formale a due periti di analizzare 10 reperti per verificare se è possibile estrarre da questi il DNA del presunto attentatore una bomber. Un vero e proprio cold case riaperto non senza dibattito processuale. Secondo la difesa, infatti, i reperti sarebbero contaminati. La miglior difesa è l'attacco, verrebbe da dire, perché nella prima udienza dalla recente riapertura del caso Una Bomber, gli avvocati degli 11 indagati hanno puntato il dito contro la possibile contaminazione dei reperti, tornati sotto la lente degli inquirenti dopo l'inchiesta del giornalista Marco Maisano, che aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione a visionare il fascicolo di un allora considerato cold case, vecchio caso irrisolto. I reperti erano al porto di Trieste, custoditi dentro, diciamo, un magazzino, immaginiamolo come un box auto, custodito così, insomma, ecco. Che idea si è fatto di questa custodia? Ma, un'idea, diciamo, di una custodia di un caso chiuso, insomma, ecco, il caso era chiuso. 90 giorni di tempo avranno i periti incaricati dalla procura per verificare con le nuove tecnologie se è possibile estrarre il DNA da peli, capelli e saliva trovati negli ordigni. 90 giorni di tempo avrà anche Paolo Gasparini, direttore del Dipartimento di Genetica del Burlo, nominato dalla difesa per verificare eventuali manomissioni alle prove. Alessandra Devetag, avvocato. Sono stati manipolati, aperti, estratti, tolti dalle buste. Ci sono foto di giornalisti che tengono il reperto con la mano, senza guanto. Non so, mi dica lei. Esclude violazioni procedurali il procuratore capo Antonio De Nicolo, fiduciosi gli avvocati delle vittime. Serena Gasperini, avvocato di Francesca Girardi. Reperti che sono piliferi, se riusciamo a prelevare il DNA è un po' difficile che ci sia contaminazione su un elemento del genere. Tra gli 11 indagati anche Elvo Zornitta, la cui posizione fu archiviata nel 2009. Maurizio Paniz, avvocato. Lo stesso ingegner Zornita ha sempre insistito perché si andasse a fondo a cercare un colpevole. Ovviamente non c'è una grande fiducia sulla speranza che l'esito possa essere positivo. Giovani e determinate donne presenti in aula, Greta Momesso e Francesca Girardi, entrambe mutilate le mani dagli ordigni toccati quando avevano appena 6 e 9 anni. Francesca perse in parte anche la vista. Quando a me è successo l'attentato io ero una bambina, avevo 9 anni, non potevo farne niente. Ora invece sono una donna di 28 anni ed è giusto che io sia lì dentro a combattere e a lottare per questo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'avvertenza Varsila. Sono previste per oggi alle 12.45 nell'aula della Commissione Lavoro della Camera le audizioni dei rappresentanti dei sindacati CGL, CISL, UIL e UGL nell'ambito della discussione delle risoluzioni sulle iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Abbiamo chiesto ad Antonio Rodà, segretario della UIL Metalmeccanici di Trieste, quali sono le richieste che i sindacati avanzeranno ai parlamentari delle commissioni Lavoro e Attività Produttive. Noi andremo a ricordare ai parlamentari, insomma, quelli che sono i prossimi appuntamenti che ci aspettano, quindi la prosecuzione di una vertenza molto complicata che vedrà nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare la convocazione per la continuazione del tavolo all'ex Ministero dello Sviluppo Economico, e qui insomma quello che noi chiederemo è di continuare nell'impegno che tutte le forze politiche avevano messo nella prima fase dell'avvertenza. L'avvertenza non è assolutamente finita, noi dobbiamo portare a casa un doppio risultato, che la riconversione, la reindustrializzazione da parte del nuovo soggetto che dovrà subentrare, ma anche la continuità e la garanzia dei posti di lavoro per la parte di Varsila che resta in Italia, quindi insomma la missione è doppia e sicuramente non semplice. Quali sono le indicazioni ad oggi disponibili sull'eventuale nuovo soggetto che dovrà arrivare? Noi siamo rimasti all'ultimo incontro che abbiamo avuto al Ministero, in cui l'advisor incaricato da Varsila, che era presente, aveva parlato di 4-5 soggetti che erano arrivati rispetto ai 20 complessivi che avevano manifestato un interesse su Varsila e 4 che erano arrivati in una fase più avanzata di approfondimenti, la cosiddetta data room. E quindi quello che ci si aspetta rispetto anche a come si è chiuso l'ultimo incontro è che nel prossimo tavolo vengano fuori i nomi e vengano fuori i primi abbozzi di un progetto, di un piano industriale di chi vuole subentrare. Un'inchiesta giornalistica europea ha tracciato una mappa dei composti chimici considerati perenni che contaminano suoli, acque e aria anche nella nostra regione. L'ARPA effettua monitoraggi semestrali e nei punti più critici evidenzia l'inquinamento circoscritto o in diminuzione. Un progetto europeo, pubblicato su Le Monde e Le Scienze, per mappare l'inquinamento da PFAS in tutta Europa, Friuli Venezia Giulia compreso. Una famiglia di alcune migliaia di sostanze impermeabilizzanti, utilizzate per decenni per fare pentole antiaderenti, cartoni della pizza, batterie, detergenti, per caratteristiche di repellenza ai grassi e all'acqua, hanno una stabilità praticamente eterna. La mappa si basa su rilevazioni del 2018, due siti con i valori più elevati in regione, a Premariacco, in discariche attenzionate da Legambiente già dal 99, e a Roveredo in piano Porcia. Una fotografia sicuramente sottostimata del fenomeno, indicano i creatori del progetto, proprio per le caratteristiche di mobilità e permanenza di queste sostanze. La loro pericolosità sta nella tendenza ad accumularsi e ad entrare nei suoli, nelle acque e nella catena alimentare. Eleonora Aneggi, ricercatrice di chimica generale e inorganica all'Università di Udine. Vanno a interferire con quello che è il sistema ormonale dell'essere vivente, dell'uomo in particolare, ed hanno poi delle problematiche a carico di patologie tumorali, in particolare del rene e del fegato e anche malattie di tipo tiroideo, anche se sono necessari ulteriori studi per andare a correlare in modo diretto le patologie che qui vi ho elencato con l'esposizione, soprattutto a lungo termine, di queste sostanze. Difficile stabilire con esattezza una soglia di rischio, indica Stefano Polesello, ricercatore del CNR, tra i primi a scoprire la più grande contaminazione da PFAS in Italia, in Veneto. L'evoluzione degli studi sta facendo sì che i livelli accettabili, queste sostanze, sono in continua diminuzione. Oggi si parla di nanogrammi litro, purtroppo, essendo questi usati da 40 anni innanzitutto, diffusi in ambienti e persistenti, questi livelli che sono considerati di rischio sono presenti praticamente in ogni luogo dove viviamo. ARPA rende noto che dalle prime rilevazioni del 2018 il monitoraggio a cadenza semestrale, a Porcia il trend è in lieve decrescita, a Premariacco non ci sono evidenze di spostamenti significativi verso l'abitato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca. Due incidenti in autostrada nella prima serata di ieri. Sull'A28, nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest, in direzione Conegliano, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada. La donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Nella vettura c'era anche un cagnolino che è stato recuperato lungo l'autostrada da un automobilista. In A4, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato, ferito non gravemente e è stato portato in ospedale. È sotto controllo dal tardo pomeriggio di ieri anche l'incendio boschivo di Vampato a Chiusaforte in località Patocco. Erano intervenuti i volontari della squadra comunale di protezione civile con l'elicottero della protezione civile che ha effettuato anche dei lanci d'acqua, il corpo forestale regionale della stazione di Paluzza e i vigili del fuoco. Gli appuntamenti politici di oggi in vista delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. Presentazione della lista di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Gorizia alle 18.30 a Pieris, nella sala civica in casa delle associazioni in via Marconi. A Trieste i candidati dell'Associazione Politica Insieme Liberi incontrano i cittadini alle 18 nella sala conferenze dell'Hotel Milano. Alle 11 a Udine, all'Hotel Ladi Moret, conferenza congiunta della lista Liberi Elettori Io Amo Udine e della lista Insieme Liberi. Ci saranno il candidato sindaco a Udine Stefano Salmè e la candidata alla presidenza della regione Giorgia Tripoli. Si è parlato di settimana lavorativa corta ma anche di formazione nel convegno organizzato ieri da CISL e IAL sulle politiche attive del lavoro. Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, un'esigenza per molti lavoratori anche per evitare prosegua il fenomeno delle grandi dimissioni. Diversi studi dimostrano come sia possibile farlo addirittura aumentando la produttività, che rimane uno dei fattori per cui il paese fatica a crescere, non riuscendo così nemmeno a far salire le retribuzioni. Ma sull'applicazione della misura per tutti, a essere scettici sono gli stessi sindacati. Alberto Monticco, segretario regionale CISL. Settimana corta per tutti potrebbe aver senso, ma credo che sia inapplicabile e impossibile. Nelle aziendine da 2, 3, 5, 10 persone credo che sia difficile trovare una flessibilità di orario di questo tipo. Deve passare il concetto che se da 40 passo a 32 ore non ci posso passare rimettendoci soldi. Una sperimentazione che quindi dovrebbe partire dalle aziende più strutturate. La stessa Confindustria apre l'ipotesi con paletti certi. Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale Confindustria Alto Adriatico. Sta aumentando la percezione da parte delle persone, almeno questo è quello che noi constatiamo, sulla necessità di avere più tempo libero. È un cambiamento in atto che va seguito, che va analizzato. La settimana corta può essere una risposta a questo cambiamento. È chiaro che va condivisa tra aziende e organizzazioni sindacali con un punto fermo. La produttività deve aumentare perché chiaramente poi le aziende devono continuare a operare con economicità sul mercato e riuscire a vendere i loro prodotti, altrimenti il gioco non sta in piedi. Al convegno sulle nuove opportunità per le politiche attive per il lavoro organizzato a Trieste da CISL e IAL si è però parlato anche della centralità della formazione che non deve essere utilizzata dalle aziende come mera misura di welfare aziendale e che invece deve diventare un'occasione di investimento su se stessi anche per i lavoratori già assunti. Trieste, Andrea Saulo, TGR, Friuli Venezia Giulia. 128 aggressioni solo nel 2021, secondo gli ultimi dati disponibili dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. In un caso su tre, le violenze ai sanitari sono di tipo fisico, in uno su quattro di tipo fisico e verbali. Per prevenire il fenomeno in crescita, la Croce Rossa di Pordenone ha organizzato ieri, fuori dall'ospedale cittadino, un presidio di sensibilizzazione con l'Ordine dei Medici, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, la Federazione Medici di Medicina Generale, Medici Cure Primarie e ASFO. Sentiamo alcune testimonianza raccolta ieri. La mancanza di personale sia sul territorio ma sia anche all'interno delle strutture ospedaliere, sia convenzionate che pubbliche, per cui il problema nasce lì, la richiesta è aumentata ma il personale che può naturalmente dare risposte puntuali è diminuito, quindi l'attrito si crea proprio lì. Le persone sono un po' più aggressive e chiedono tutto subito. Ritengo che l'aspetto importante è l'educazione e la cultura della non violenza. Vediamo tutti i giorni in pronto soccorso quello che succede e non è facile perché subiamo un'aggressione che andiamo a casa con la paura, già il lavoro è diventato sempre più pesante e l'aggressione non è una cosa bella verso di noi. Dobbiamo far capire alle persone che noi siamo là per aiutarli, non subire ancora più violenza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito della programmazione trasversale di educazione civica, il Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Leopardi Maiorana di Pordenone organizza il Flash Mob Break the Chain, il Leo Myers spezza la catena della violenza sulle donne, per sensibilizzare i ragazzi al tema della violenza di genere. L'evento si terrà dalle 11.30 alle 11.45 in piazza 20 settembre nell'area antistante la Casa del Mutilato. Molto attesa a Grado la riapertura della piscina termale, altrettanto atteso l'avvio delle terme marine a maggio, che sono state ristrutturate con un investimento di 5 milioni di euro. È prevista per domani invece l'apertura delle terme romane di Monfalcone. Sentiamo. Di nuovo in piscina a Grado, nell'acqua termale dell'impianto che dopo pochi giorni di apertura fa già registrare numeri da tutto esaurito. 150 ingressi la domenica, una novantina negli altri giorni feriali. Una riapertura attesa dopo lo stop imposto dal caro energia. Leonardo Tognon, GIT Grado. Abbiamo riaperto con il progressivo e l'ambizioso progetto di ritornare all'orario normale, riapertura anche del corner delle saune e della nebbia marina, quindi tutto quello che è talassoterapia, prima della riapertura a maggio delle terme marine che sono state ristrutturate all'interno e fanno parte del grande progetto del polo termale che oggi Promoturismo per conto della regione sta attuando e realizzando. E nei prossimi anni sempre di più Grado diventerà una sorta di capitale del benessere e del bellessere con l'utilizzo dell'acqua di mare, quindi aperto tutto l'anno anche questa struttura. La piscina termale è aperta ogni giorno dalle 10 alle 16 tranne il martedì. Tra breve prevista anche l'apertura della zona dedicata alle saune. Io vengo ogni giorno, sono una cliente assidua. Sente i benefici però di quest'acqua? Sì, esatto, l'acqua termale, l'acqua di mare, e a livello sia muscolare ma anche a livello respiratorio. Oltre 5 milioni l'investimento per la ristrutturazione delle terme marine gradesi. L'attesa ora riguarda l'adiacente nuovo edificio del polo termale che porterà l'investimento totale a circa 25 milioni. A Monfalcone intanto la riapertura delle terme romane slitta di qualche giorno è prevista per domani. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Si amplia il progetto Botteghe Artigiane della Carnia che nascerà dalla ristrutturazione della storica sede della tessitura carnica in comune di Villa Santina. Il Carnia Industrial Park amplia la possibilità di locazione oltre che alle imprese artigiane e artistiche anche a quelle dei settori alimentari. L'unità modulare destinata alla locazione si trova nell'ala sud dell'edificio e ha una superficie complessiva di circa 640 metri quadrati, di cui circa 130 potranno essere dedicati all'esposizione e alla vendita al pubblico dei prodotti realizzati nel laboratorio retrostante. Domande entro il 6 aprile, bando pubblicato sul sito web del Consorzio Carnia Industrial Park. L'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e l'Università di Trieste stanno sperimentando anche in regione un nuovo metodo per stimare velocemente l'impatto del terremoto sugli edifici. Il metodo, elaborato e testato dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e dell'Università di Trieste, serve a stimare rapidamente i danni dei terremoti sugli edifici. Seppure ancora in fase sperimentale, già pubblicato sulla rivista internazionale di riferimento del settore e punta a supportare una migliore risposta all'emergenza in seguito ad eventi sismici in aree sismicamente attive. Per applicarlo bisogna prima registrare il terremoto vicino o dentro l'edificio con dei sensori. Sulla scorta dei dati raccolti si arriva poi a calcolare se possa aver causato o meno danni strutturali, spiegano dall'OGS. Testare questo approccio in Italia però non è stato facile per la scarsità di registrazioni di terremoti negli edifici. Si sono quindi usate quelle di una serie di sommovimenti rilevati in Italia nordorientale e centrale negli ultimi 10 anni. In tutti i casi considerati è stata individuata senza errori la condizione degli edifici dopo il sisma, sia in presenza che in assenza di danno, sottolineano ancora gli ideatori del metodo. In particolare, l'unica registrazione disponibile per un edificio danneggiato tra quelle studiate è quella del terremoto dell'agosto 2016 nelle Marche, che ha causato danni strutturali a una scuola identificati correttamente dal metodo triestino, risultato affidabile anche per tutte le altre registrazioni da edifici non danneggiati. La nuova metodologia potrà ora essere applicata anche in Friuli Venezia Giulia, grazie alla rete di monitoraggio sismico presente oggi nel nord-est gestita dall'OGS, che include anche più di 300 sensori installati all'interno di edifici della regione e del vicino Veneto. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ricorre oggi la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura nel 2017. In questa occasione la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia organizza una mostra digitale sui paesaggi storici della regione con una selezione di immagini tratte dall'archivio fotografico. L'esposizione sarà visitabile nella sede di Palazzo Clabassi a Udine oggi dalle 16, a seguire il primo incontro di un ciclo di conferenze sul tema del paesaggio con l'intervento di Elisabetta Pecol, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, intitolato Suolo come paesaggio, le ragioni per difendere il suolo. All'insegna del connubio studio-lavoro, la 12ª edizione di Pordenone Design Week. Fino a venerdì l'iniziativa torna alla sua tradizionale formula partecipata da studiosi, ricercatori, studenti e imprese del territorio per consolidare il rapporto tra il mondo del design, il campus universitario di Pordenone e il territorio locale. Si è aperta con la Lectio Magistralis dell'architetto e professore Lorenzo Imbesi, alla guida della più importante associazione internazionale di scuole di design, la 12ª Pordenone Design Week, in programma fino al 17 marzo. La manifestazione analizza il ruolo centrale del design nelle sfide globali del futuro. Nella mattinata di apertura si è parlato anche di internazionalizzazione e di pace. Il professore Lorenzo Imbesi. Parliamo ovviamente di produzione, parliamo ovviamente di tecnologie e parliamo di sistemi della formazione, sistemi che ovviamente sono sempre più globali, e questa cosa qui oggi non è possibile se non parliamo appunto di una dimensione di pace. Non ci può essere internazionalizzazione, non si può viaggiare nel mondo se non siamo in una situazione di pace. Questo ovviamente è una delle sfide che dobbiamo affrontare nel presente e nel futuro. 6 i workshop sul design del prodotto con 220 studenti coinvolti. Paolo Candotti è presidente del Consorzio Universitario di Pordenone. È una modalità di interazione continua fra il mondo delle imprese e il mondo dell'università, nello specifico ISIA Roma Design, che è ormai una presenza stabile e radicata nel nostro territorio, che sta lavorando anche alla propria crescita, quindi attraverso un corso magistrale che nei prossimi anni vedrà la luce. Le imprese coinvolte in questo momento con progetti in questa Design Week sono 6, progetti molto creativi da un lato, ma anche che incontrano le esigenze appunto di innovazione nel mondo del design da parte di queste imprese. Tornano anche le lezioni in vetrina e una mostra diffusa nei negozi del centro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continua l'omaggio a Franco Giraldi, regista, attore, scrittore, sceneggiatore, nato nel 1931 da madre slovena di Trieste e padre italiano dell'Istria, scomparso nel 2020. Al Visionario di Udine alle 19.30, un anno di scuola, film del 77, all'Ariston di Trieste alla stessa ora alle 19, La Rosa Rossa, ambientato negli anni successivi al primo conflitto mondiale, che racconta la vicenda del conte Balzeri, ex generale dell'esercito austro-ungarico, che va in visita a Capodistria dal cugino, visita da cui riemergeranno i ricordi del passato. Secondo appuntamento con la rassegna che celebra il quarto di secolo del prossimo Far East Film Festival di Udine. A 35 anni dalla sua prima uscita nelle sale, Akira di Katsushiro Otomo, unanimemente considerato un capolavoro, è inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema. Sarà proiettato al Visionario di Udine alle 20 in versione originale con sottotitoli in italiano. Domani alle 21.15 in 21.25 in versione doppiata. Arriva anche a Gorizia la proiezione del del documentario per la tutela dei prati stabili al Kinemax alle 20.30, evento organizzato con Legambiente Gorizia, CAI Gorizia e Museo di Scienze Naturali al Vise Comel. È sempre a Gorizia, ma al Kulturni Dom prende il via il Festival Comico Trilingue Comigo 2023. Alle 20.30 cineconcerto con il film comico muto What Happened to Jones e accompagnamento musicale dal vivo con alcuni membri della Zero Orchestra. Si conclude il ciclo di conferenze Israele, archeologia e storia con Giada Molinari. Si parla oggi delle ricerche archeologiche dell'Università di Genova ad Acco alle 17.30 al Museo della Comunità Ebraica di Trieste o online sulla piattaforma Zoom. E alle 17.30 a Udine in Sala Iace sarà presentato il libro di Andrea Valcic, In the Nant, edito dalla Patria e dal Friul. Sarà presentato alle 18 il volume Le chiese di Gorizia, frammenti di storia e arte, opera frutto del lavoro congiunto del Club Perludensco di Gorizia e della sezione goriziana di Italia Nostra, che presenta dal punto di vista artistico e storico le chiese della città. L'incontro si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i santi patroni di Gorizia, che quest'anno ha per tema la cultura dell'incontro e si svolgerà nel suggestivo scenario della Sala del Settecento, unico resto del Collegio dei Gesuiti del capoluogo isontino andato distrutto dopo la Prima Guerra Mondiale. E un altro libro, Mi va di Sint l'eroe di Pia Abelli Totti, verrà presentato alle 18 alla Libreria Friuli di Udine. Un nuovo spazio multifunzionale dedicato a bambini e ragazzi è pensato per le esigenze della didattica museale. Si chiama Mira Lab e verrà inaugurato alle 11 nelle serre nuove del Parco del Castello di Miramare. Vi si svolgeranno laboratori, attività educative, incontri e conferenze, così da far vivere ai più piccoli nuove esperienze alla scoperta del parco che lo circonda, come ci ha spiegato la direttrice del Museo Storico e del Parco del Castello, Andreina Contessa. È una delle sale delle serre nuove, in una zona che è stata già completamente riqualificata 2 anni fa con la creazione dell'aranciaia dell'Orangerie di Miramare, che realizzava il sogno di Massimiliano. Ora in questa zona, che è già di per sé molto armonica e organica, viene aperto questo laboratorio, questo Mira Lab, che è uno spazio multifunzionale, molto bello, creato apposta per i ragazzi. Io credo che sia un momento importantissimo per un museo, quando un museo riesce a creare uno spazio apposito dedicato ai ragazzi e ai bambini, uno spazio che non c'era prima nel Castello di Miramare. È anche particolarmente significativo che questo spazio sia all'interno del parco, perché normalmente la didattica, anche dedicata alle scuole, è sempre stata incentrata sul castello, sulla storia del castello, sui suoi protagonisti, cosa che continuerà ad esserci in parallelo, ma non ha mai avuto come protagonista il parco. E adesso il parco, il giardino di Miramare, diventerà anche il centro, il fulcro della didattica. Quali iniziative e cose verranno organizzate? C'è già un programma? Sì, c'è un programma che è una serie di percorsi. Ci sono 2 sezioni generali, una proprio a tema naturalistico e un altro più storico-artistico, perché anche il parco naturalmente ha questa sezione legata proprio alle scienze naturali, legato agli alberi, agli insetti, agli alberi monumentali, ai patriarchi del parco, alle passeggiate botaniche. Il nuovo laboratorio si rivolge in particolare agli allievi delle scuole? Agli allievi delle scuole di tutte le età, veramente dalle età più piccole ma anche ad età maggiori, e ci saranno anche delle attività estive che quindi saranno proprio utili anche ai genitori. Quando sono le 7.47 iniziamo la nostra rassegna stampa. La crisi Varzila torna in Parlamento è il titolo della fotonotizia che apre l'edizione di oggi del Piccolo di Trieste. Altro titolo forte è quello a centropagina. Per Portovecchio spunta il nome di Mister Atalanta. Contatti tra il comune e l'imprenditore Percassi, sul piatto l'acquisto di tutti i 65 ettari del comprensorio. A lato 2 richiami di cronaca. Il primo sull'ospedale di Cattinara, ridisegnata la viabilità per pazienti e personale. Il secondo sull'inchiesta Una Bomber, affidate le perizie sui 10 reperti chiave. In taglio basso 2 notizie di cultura. La vedetta Alice entra tra i beni vincolati e il premio Saba assegnato a Vivian Lamarck. Sempre la notizia del Porto Vecchio apre anche le pagine della cronaca cittadina, accompagnata da un altro titolo: da Palazzo Vučetić al complesso di Via Giulia, la missione della regione a Cannes in cerca di investitori. La settimana di lavoro corta e l'apertura dei sindacati per il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, 32 ore senza riduzione di stipendio. Per la CISL resta centrale la formazione. Accanto una foto per l'ascensore che sale al castello di Udine da Piazza Marconi. L'impianto è quasi pronto e il tema apre la cronaca cittadina insieme alla notizia che le chiavi del Contarena, storico caffè di Palazzo Daronco, torneranno al comune dopo le elezioni per un nuovo bando di affidamento. In prima pagina c'è anche il ricorso al TAR del Teatro Club di Udine dopo il mancato finanziamento regionale all'associazione che cura il palio studentesco. L'udienza il prossimo 22 marzo, ma si pensa anche a una raccolta di firme. Due richiami anche per le nuove indagini su una bomber e per la condanna a 4 anni di un uomo in un incidente. Morì la moglie, lui era alla guida ubriaco e aveva la patente revocata. La difesa presenterà ricorso. In taglio alto i timori dell'agricoltura per la siccità, meno coltivazioni di mais in Friuli. Sul Gazzettino inserto del Friuli, ogni sforzo per trovare una bomber, dice il comandante del RIS di Parma, Gian Pietro Lago, incaricato dalla procura dell'esame dei reperti. Fotonotizia, vigili urbani in fuga dalla città, ma arrivano rinforzi, 12 assunzioni per 7 agenti che hanno dato le dimissioni. Teatro Club senza finanziamenti, anche qui faremo ricorso, dice l'associazione del Palio, e di spalla la montagna torna a vedere l'occupazione. L'edizione di Gorizia del Piccolo apre con una fotonotizia sulla viabilità a Monfalcone, rotatoria del Porticciolo, via ai lavori. A centropagina il titolo principale, la centrale anticrimine, aperta a Gorizia la nuova sala operativa Interforze, il sindaco, primi in regione. Sempre a centropagina una fotonotizia più piccola è dedicata al polo energetico di Monfalcone con la delusione del rione Enel. Spazio poi a un richiamo di cronaca, condannati i due rapinatori transfrontalieri, le scuse in aula. In basso altri due richiami, il primo sullo show delle frecce tricolori previsto a Grado il 2 agosto, il secondo sulla storia di Ilaria Felluga, regina del vino, per Forbes. Sempre alla nuova sala operativa è dedicata anche l'apertura delle pagine di cronaca di Gorizia, 216 inquadrature per una città sicura. Anche il Gazzettino di Pordenone apre sul caso una bomber, mentre a centropagina sedie e tavolini nella zona verde della regione tra la chiesa del San Giorgio e la Roggia e il ristorante. Si è preso in carico anche pulizia del verde e del corso d'acqua. Accanto vandali all'assalto, mattone contro il vetro della scuola media di Valvasone. Di spalla taxi dei rifiuti per zittire i commercianti, la navetta della GEA che già esisteva per la raccolta supplementare della plastica, e sotto acquedotti Colabrodo e il Coda con schede ai danni. In basso ancora lo sport con il calcio in primo piano, Lovisa promuove Nero Verdi del neo allenatore Stefani, e in alto a Cordenons volontari puliscono i Magredi e trovano la discarica di Eternit. Sul Messaggero Veneto a centropagina una foto del funerale di Barbara Brotto, una delle due ragazze morte nell'incidente di 10 giorni fa in Veneto. Alla guida dell'auto c'era un 19enne del Pordenonese rimasto gravemente ferito. Di spalla anche qui caso una bomber, poi università, grana solai per via Bertossi, ipotesi prefabbricati, e ancora l'allarme dei geologi per la storica secca del Tagliamento. Alcuni altri appuntamenti di oggi. Confidi Friuli e l'Ordine dei Commercialisti di Pordenone organizzano un convegno sul rapporto banca-impresa e la sostenibilità del debito. Inizierà alle 17 nella sala di Palazzo Montereale Mantica della Camera di Commercio di Pordenone. L'arte di gestire lo stress con consapevolezza comportamentale, il tema dell'incontro online proposto oggi dalle 16:30 dall'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia con Fapi. Il webinar sarà condotto da Giovanni Tavaglione, professionista nello sviluppo personale e nel supporto psicofisico di chi per lavoro deve coniugare risultati economici, sportivi e sociali. Proseguono le trasmissioni organizzate dalla nostra redazione in vista del voto amministrativo del 2 e del 3 aprile. Oggi la prima serie di messaggi autogestiti delle forze politiche in lizza per il comune di Udine. Andranno in onda per la televisione alle 13.15 su Rai 3 a diffusione regionale e per la radio su questa stessa rete, Radio 1, alle 17.05. I messaggi saranno poi pubblicati su una pagina dedicata del nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelindi parlerà dell'andamento del settore del legno arredo. Alle 11.20 a Radar il Pi Greco Day, la giornata internazionale della matematica, il libro Carlo Urbani, il medico della SARS e l'almanacco scientifico. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. In regia Andrea Fontanot e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Daniele Lettige e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.